Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buona domenica e buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Libiamo negli Eti Calici della Traviata di Giuseppe Verdi, un brano notissimo. Libiamo negli Eti Calici per presentare Giancarlo Aneri. Buongiorno e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Giancarlo Aneri, libiamo negli Eti Calici perché per libare ci vuole un elemento essenziale che è il vino, ed è il vino è una delle passioni gastronomiche, produttive, imprenditoriali di Giancarlo Aneri, che è presidente, amministratore delegato della società che si chiama Aneri SRL. Quindi una società che si identifica con la persona, direi un'esperienza che parte da lontano. Aneri si è sempre interessato di cose buone. Sì, la mia passione è partita quando ero piccolo, perché compravo i cioccolatini e li vendevo ai miei amichetti nei giochi della giornata. Poi, quando ho deciso di fare la persona seria e decidere quello che dovevo fare da grande, ho scelto l'enogastronomia perché sono sempre stato un appassionato delle cose buone, di nicchia. Facevo anche 100 chilometri con la mia macchina prima di produrre l'olio nella mia azienda per andarmi a comprare due bottiglie di olio buono. Quindi olio, vino, caffè, tutto quello che può essere buono. Ho dimenticato qualcosa? Ha detto tutto, ma le dico che sono due società, ma che sono sempre legate alla mia famiglia, e hanno una caratteristica: sono prodotti che vanno benissimo per il mercato nazionale, ma vanno benissimo anche per il mercato internazionale. Cioè, io ho pensato di produrre e di portare in giro per il mondo delle specialità che potevano avere mercato. Ecco, io forse ho dimenticato qualcosa, perché parlare di vino forse è riduttivo, dovremmo parlare di vini. Vini, perché anche come negli olli abbiamo scelto le tre regioni che io considero più prestigiose: l'Umbria, la Liguria, la Toscana. Parlo per il mio gusto, non per una classifica che va bene per tutti. Nei vini, essendo veneto, il mio vino di punta è l'Amarone, che ho dedicato, si chiama Amarone Aneri Stella perché è dedicato a mia figlia. Il secondo vino importante nella produzione nostra è il Prosecco, perché il Prosecco è un vino che tutto il mondo ci invidia, compresi i francesi, ma che tutto il mondo ama. Difatti sta vivendo un momento bellissimo. Poi in Alto Adige, una regione che io stimo tantissimo, ho prodotto un Pinot Nero e un bianco, due bianchi, uno un Alto Adige DOC e l'altro un Gewürztraminer, perché secondo me è il vino ideale per le donne. Il Gewürztraminer l'ho creato pensando solo alle donne. Cioè un vino per le donne, un vino femminile, anche il vino ai suoi generi? Sì, cioè io mi rendo conto anche quando sono ospite a qualche pranzo, a qualche cena, le donne amano i profumi. Il Gewürztraminer è uno dei bianchi più profumati d'Italia. La prova, visto che l'ho dedicato a mia moglie Leda, la prova l'ho fatta a casa mia. Mia moglie beve due dita di vino a pasto, non di più, e ha detto: questo potrei berne un dito in più, berne anche tre. E quindi anche una campagna pubblicitaria indirizzata alle donne, indirizzata alla femminilità? Cioè, la pubblicità noi non la facciamo, ma il messaggio è questo. Se una signora con un signore va al ristorante e la signora, se deve scegliere, secondo me, scegliendo il Gewürztraminer, sceglie un vino ideale per lei, ma piacerà anche al suo ospite o al suo accompagnatore. Ecco, quindi diceva: non fa pubblicità, si fa pubblicità da solo, una rete di passaparola in fondo, e Aneri si trova soprattutto nei ristoranti, nei grandi ristoranti in Italia e all'estero. E nei ristoranti e alberghi. Cioè, noi abbiamo 500 clienti nel mondo e io sono molto orgoglioso perché è un elenco di nomi molto prestigiosi. E perché abbiamo scelto il ristorante in particolare, perché poi facciamo anche altri settori, perché abbiamo scelto il ristorante e gli alberghi? Perché un ristorante, se è di alto livello, ha l'obbligo di presentarti il vino e di spiegarti quello che ti offre. Lo stesso vale per l'albergo. In uno scaffale di un negozio non c'è l'obbligo di spiegarti tutto, lo devi sapere già tu. E allora il messaggio del passaparola ci serve quando il vino è in enoteca e in uno scaffale. Io ho un grande cliente che è l'Esselunga, che ha tante enoteche con i sommelier, e lì c'è il sommelier che ti spiega le cose. Apriamo una parentesi, poi torniamo sui vini neri. Non costano un po' troppo i vini nei ristoranti? I vini nei ristoranti adesso costano meno, perché con la crisi secondo me sono stati attenti a non triplicare i prezzi. Però il consiglio che ho dato io a tanti miei amici che hanno dei ristoranti è quello: ma perché dovete vendere una bottiglia solo perché gli mettete un margine del 150%? Se gli mettete un margine del 75%, ne vendete due, il cliente è più contento e voi guadagnate lo stesso. Questa è una teoria che piano piano sta entrando nella testa dei ristoratori. Quindi una capacità anche di avvicinare il cliente e appunto creare una cordialità di rapporti presentando anche i prodotti. Sì, cioè io conosco l'80% dei miei clienti, perché anche quando un cliente compra un mio prodotto e io non l'ho conosciuto solo di nome, se sono in quella zona del mondo, in quella città, vado a presentarmi, non per fare un'ulteriore vendita, ma per dire: io sono qui, se lei ha bisogno mi chiami, che non ci sono problemi. Ecco, sul fronte gastronomico il Made in Italy è ancora una etichetta vincente. Io dico che il Made in Italy dell'enogastronomia è allo stesso livello del Made in Italy della moda, del prêt-à-porter, solo che il Made in Italy dell'enogastronomia ha delle tradizioni molto molto più vecchie ed è molto consolidato. Ecco, Giancarlo Aneri, dov'è il mercato che estero che l'ha sorpresa di più, in cui aveva magari più dubbi e poi invece ha trovato una grande facilità, se si può dire? Ecco, le dico, se non parliamo solo di vino e parliamo anche di olio, di caffè, il mercato russo è quello che mi ha sorpreso per il caffè. Cioè noi abbiamo questa torrefazione che ha 63 anni di storia, che produce caffè di super qualità e siamo anche considerati molto cari. Il mercato russo è il nostro miglior mercato per il caffè e vuole il caffè più caro che abbiamo noi. Cosa vuol dire? Che se tu entri con l'importatore giusto, l'importatore ti può anche inserire in un mercato ideale per te, ma ideale per una grande qualità. Ecco, un mercato ovviamente piccolo, fatto di super ricchi, sì, come possono essere i russi. Sì, di super ricchi o di quelli che sperano di diventare ricchi e cominciano a abituarsi con un caffè, se lo possono permettere. Certamente. Caffè magari costa mezzo euro in più dell'altro ed è uno status symbol per loro. La Cina non c'è ancora? La Cina c'è con piccole spedizioni attraverso il Giappone. Cioè la Cina secondo me diventerà importante nei prossimi fra 10-15 anni. E bisognerà fare come abbiamo fatto noi imprenditori italiani, fare i missionari, andare, aprire le bottiglie, farle conoscere, spiegare. Oggi io non ho il tempo e neanche la potenzialità per fare un progetto del genere. Appena il mercato si aprirà, comincerò a fare i miei viaggi in Cina, come ho fatto più di 100 viaggi negli Stati Uniti. Anche perché la sua è un'azienda a dimensione piccolissima. Io lo dico sempre, due botteghe. Una che produce vino e una che produce olio e caffè, ma le considero botteghe. Cioè botteghe artigianali, con tutto quello di vantaggioso che c'è nell'artigianato, però con il limite appunto della quantità, però la qualità è qualcosa che deve fare premio sulla quantità. Guardi, ci sono due scelte nella vita di un imprenditore: se fa la qualità, e io la cerco anche esasperata, nel senso di stare attenti ai tempi, alla selezione, non avrà mai la quantità, perché la quantità ti permette di fare grandissimi numeri, ma non puoi fare una selezione di nicchia perché è un mondo diverso. Ecco, torneremo poi magari nella seconda parte a parlare di vino, olio e caffè, però vorrei chiudere questa prima parte parlando di una passione di Giancarlo Neri, che è quella per il giornalismo. Ma perché da piccolo voleva fare il giornalista? Sì, da piccolo volevo fare il giornalista. Secondo me ho imparato di più dal Corriere della Sera che non dai libri della scuola, perché ero curioso di capire quello che succedeva nel mondo e il giornale mi ha sempre informato nel modo migliore. E poi ha messo insieme i tre grandi giornalisti storici ormai del giornalismo italiano, Indro Montanelli, Enzo Biagi e Giorgio Bocca, per realizzare il più importante premio italiano di giornalismo. Quando è nata questa idea di fare il premio e giornalismo? È nata nel 1992. Io frequentavo già da diversi anni, ma le parlo da decenni, sia Montanelli che Biagi che Bocca. Sono tra i miei amici, grandi amici, perché per me sono ancora vivi. E ho detto dentro di me, questi tre signori che a volte si amano, a volte si amano un po' meno, li devo tenere insieme perché rappresentano tre persone per bene che hanno scelto di fare un lavoro, l'hanno fatto bene e non si sono mai fatti condizionare da una strada più veloce e magari anche più interessante a livello economico. Sono tre esempi di vita che possono servire in tutti i settori. E io oggi sono orgoglioso che il mio premio, dove quando ogni anno premiamo il nuovo giornalista dell'anno, c'è scritto fondato da Montanelli, Biagi, Bocca, mi sono messo staccato e Giancarlo Aneri, per rispetto nei confronti dei tre grandi. L'ultimo premiato è stato Claudio Magris, che abbiamo avuto ospite in questo programma il mese scorso. Il primo chi è stato? Curzio Maltese, quando era La Stampa, non era Repubblica. Poi c'è stato Gianni Riotta e poi Gian Antonio Stella. Ecco, hanno bisticciato Biagi, Bocca e Montanelli per dare il premio a Maltese? No. Perché Maltese era giovanissimo e quando lavorava alla Stampa non aveva il ruolo che ha oggi su Repubblica. Perciò è stata una scelta facile, come quella di Riotta, come quella di Stella. Qual è stata la scelta più difficile, quella su cui qualcuno ha posto quasi un veto? La scelta più difficile è stata, Montanelli aveva passione per Merlo, lo voleva fare e non è riuscito a convincere gli altri due giurati. E la considero una scelta difficile perché Montanelli ci è rimasto un po' male. Poi ce ne sono state altre che magari hanno fatto passare la mezz'ora, un'ora, ma non c'è mai stata una scelta difficile. Ci sono state tante scelte facili, per dirle Ettore Mo l'ha fatto in nome Bocca, Montanelli ha detto sì, Biagi ha detto sì, ci eravamo seduti da 30 secondi. Ecco, ma forse allora qui ha rinunciato alla discussione, perché la discussione fra questi tre grandi poteva essere anche una cosa piacevole, insomma, quindi forse poi avete parlato d'altro. Di cosa parlavate, oltre che di giornalismo? Di giornalismo, di vino, per dirle, tutti i miei vini, la prima bottiglia di un vino nuovo che io creavo la bevevano loro tre. E lì c'erano delle discussioni, perché Bocca era amante del vino rosso, Biagi era più amante di un vino bianco oppure di un prosecco. Biagi piaceva molto, anche da Emiliano forse era più portato per un vino leggero. Montanelli era al di sopra delle parti perché diceva: io amo solo il vino buono, ma ne bevo due dita e non di più. Beveva pochissimo, ma non... Montanelli è sempre stato un uomo che non ha mai partecipato a delle cose che considerava normali, perciò sorrideva, ma non si infervorava come gli altri. Comunque discutevate del premio prima di bere o qualcosa? No. Allora, quando ci sono state delle scelte difficili, io ho preferito rimandare il discorso del premiato dopo due bicchieri di vino. E quindi c'era magari più lucidità, ma anche un po' più di brillantezza. Sì, c'era più relax. Grazie a Giancarlo Aneri. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico, ma torniamo appunto con Giancarlo Aneri a parlare nella seconda parte ancora di giornalismo, ma anche di vino, caffè, olio, di buone cose all'italiana. Incontri. Buongiorno e ancora buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Riprendiamo il nostro colloquio con Giancarlo Aneri, presidente e amministratore delegato della sua azienda, Aneri, un'azienda che si occupa di vini, vini Prosecco, ci spiegava nella prima parte, vini dell'Alto Adige, vini rossi, l'Amarone soprattutto, che è il vino principale della sua azienda, anche di olio, di caffè, un'azienda che vende i suoi prodotti di alta gamma a tutto il mondo, soprattutto nelle catene alberghiere e dei ristoranti. Abbiamo parlato del premio E Giornalismo, che è stato fondato 20 anni fa. Vent'anni fa, proprio da Giancarlo Aneri, che nella prima parte, finché hanno potuto, sono rimasti tra noi, aveva come nella giuria Indro Montanelli, Enzo Biagi e Giorgio Bocca. E un premio che comunque continua, l'ultimo premiato è stato Claudio Magris, che abbiamo avuto ospite nel nostro programma il mese scorso. E grandi incontri importanti che ha avuto nella sua vita. Quali sono state le persone, al di là appunto di Biagi, Bocca e Montanelli, che l'hanno colpita di più? Giancarlo Aneri. Una persona che mi ha colpito, ero molto giovane e lo frequentavo, è stato Enzo Ferrari. E io perché sono innamorato del mondo del vino o dell'enogastronomia? Perché quando incontri un grande personaggio, trovi che le sue passioni sono sempre legate anche alla cucina, al mangiare, al bere. E con Enzo Ferrari siamo diventati amici perché io ho cercato di conoscerlo, sono andato a Maranello, ho suonato, ho detto lo voglio incontrare, ho aspettato 5 ore, mi ha ricevuto, ha capito che non mollavo e poi mi ha anche dato i consigli da imprenditore per andare in giro per il mondo e per comportarmi in un certo modo e anche per approfittare dell'esperienza che aveva lui. E poi parlavamo di tutto e lui mi faceva assaggiare, lui era appassionato di Lambrusco, io portavo delle bottiglie mie di vino e lui dice buono, meno buono, lui mi faceva assaggiare il Lambrusco, gli piaceva il Lambrusco rosé, quello chiaro, e mi diceva però questo vino tu ne puoi bere 3 bicchieri e non ti farà mai male. Erano dei giochi che facevano passare un'ora diversa dal solito ma molto piacevole. E dico che Enzo Ferrari era un uomo conosciuto e stimato in tutto il mondo, però come tutte le persone, nelle cose semplici, era una persona particolare. Era una persona appunto che amava anche Enzo Ferrari, il buono, il bello, ma sì, appunto questa passione per il mito italiano, in fondo è qualcosa che Ferrari ha vissuto profondamente, così come un altro personaggio di cui mi parlava prima, sempre mi pare emiliano, modenese o dintorni, che ha portato il canto italiano nel mondo. Io le dico che Pavarotti, altro mio amico e di tante frequentazioni, di tanti pranzi, di tante cene, di tante bevute, e è un esempio dell'Italia per bene e importante. Questi due emiliani, Ferrari e Pavarotti, le può andare in qualsiasi isola sconosciuta in giro per il mondo, sanno chi sono, ma sanno che sono italiano. Ecco, lei fa brindare spesso delle personalità o magari dei vertici, dei capi di Stato con i suoi vini, con i suoi spumanti, con il prosecco. Sì. Ultimamente quale etichetta ha portato, in quali posti nobili? Allora, l'hanno scritto tutto, l'hanno detto tutti, Obama ha avuto l'onore che la sera dopo le elezioni ha brindato con il mio prosecco a Chicago. Ma per dirle, nelle settimane scorse io ero ospite a Downing Street nella residenza di Cameron, della moglie, della Samantha Cameron, e c'erano 120 ospiti. I vini di quella serata sono stati il mio Prosecco, il mio Gewürztraminer e il mio Pinot. Mi sentivo orgoglioso perché sentivo che loro apprezzavano quello che l'Italia fa. Cioè era un vanto anche per loro perché mi hanno presentato 100, è stata una cosa dura, ma 100, eravamo in 120 con il sottoscritto e mio figlio, 118, io ho conosciuto 118 persone. Ecco, eppure c'è una tradizione, penso all'estero, soprattutto in Gran Bretagna, con i vini francesi. La Francia è vista come loro la patria del vino, degli champagne, degli spumanti. Ecco, è difficile, però è possibile anche vincere questa fama, cercare di essere, non certo, forse non superiori, ma comunque essere allo stesso livello dei grandi vini francesi. Guardi, i vini francesi hanno avuto una grande fortuna. I ristoranti importanti 50 anni fa nel mondo erano quasi tutti francesi. Le nostre trattorie erano quelle che vendevano il fiasco del Chianti, pochi vini. Oggi è cambiato tutto. I ristoranti francesi sono diventati pochissimi, sono sempre a buon livello, ma pochi. I ristoranti italiani a buon livello sono 30-50 volte di più. I veri ambasciatori sono questi ristoratori. Allora io le dico, se un grande del mondo serve un vino italiano, oggi non ha più la paura di passare per uno che serve un prodotto di serie B, perché lo beve tutti i giorni nel ristorante dove va a mangiare, dove si trova bene, dove c'è classe e qualità. Noi oggi, non voglio offendere i francesi, non siamo alla pari, siamo superiori ai francesi. Abbiamo forse come italiani, magari non tanto in questi settori, ma come italiani un po' un complesso di inferiorità. C'era, adesso è cambiato. Con la nuova generazione, parliamo del vino, con la nuova generazione c'è un cambiamento anche di presentazione. Oggi uno va e dice, questo me l'ha insegnato Enzo Ferrari, mi sta venendo in moda, tu vai là, apri la tua bottiglia, batti i pugni sul tavolo e fatti rispettare. Non accettare mai che nessuno ti possa offendere. Allora io dico, se gli imprenditori italiani vanno in giro per il mondo consapevoli di avere un grande prodotto, non vanno con la sudditanza psicologica, ma vanno con l'orgoglio, non con l'arroganza, con l'orgoglio di dire questo è il massimo di quello che io posso produrre. La qualità è al massimo, provala e poi dammi una risposta. Ecco, però ci vorrebbe forse alle spalle un sostegno maggiore, forse gli imprenditori sono un po' soli andando... Sì, gli imprenditori, guardi, parlo del settore che conosco io, gli imprenditori si sono mossi da soli, hanno avuto poco aiuto da parte dello Stato italiano, mentre i francesi hanno avuto l'aiuto vero dallo Stato francese. E poi anche all'interno sono un po' soffocati le tasse, le procedure, le autorizzazioni. E anche le gelosie. A volte, cioè, io dico, se c'è un ristorante che ha 5 vini buoni italiani, è meglio che i 5 diventino 10. E invece la mentalità, quando andavo negli Stati Uniti 20 anni fa, degli italiani imprenditori del settore vinicolo o di altri settori sempre dell'enogastronomia, era quello: guarda che il mio costa meno di quello lì che tu compri. È sbagliato. Bisogna dire, è buono come quello lì, mettilo vicino. Certo. Ecco, il prezzo però è una discriminante, molto spesso il vino ha dei prezzi un po' troppo alti. In questo momento di crisi il prezzo, è, ognuno degli imprenditori che fa i listini sta attento. Oggi secondo me si paga meno un grande vino di quello che si poteva pagare 5 anni fa, ma è una strada che è in discesa, nel senso, se e tu vendi bene, non sono i 5 centesimi, 10 centesimi, l'euro che ti cambiano la vita. L'importante è vendere con continuità, vendere e rivendere, cioè bisogna vendere al quarto ordine, quel cliente è tuo, al primo ordine non è tuo. È un cliente che il giorno dopo potrebbe cambiare fornitore. Ecco, essere piccola impresa in una comunità come quella, in una realtà come quella italiana, è certamente un handicap. Bisogna fare un po' tutto da soli. Sì. Non è possibile pensare, non pensa magari di allargare, di acquisire qualche altra impresa, di farsi acquisire. No, di... Ma io le dico, io ho una fortuna. Siccome io la considero un'arte di famiglia, perché ho coinvolto sia la Neri che la Group, ho coinvolto mio figlio che è amministratore delegato della società del caffè e dell'olio, ho coinvolto mia figlia che è nel consiglio di amministrazione, ho coinvolto mia moglie, ho dedicato il prosecco numero 1 alla mia nipotina Lucrezia, ne ho altre 2. Io ho detto dentro di me, diventerò molto più importante quando lavoreremo tutti insieme. Vedo già anche le mie nipotine dentro le 2 botteghe nostre. Quindi essere azienda familiare è un vantaggio competitivo in un certo senso. È il vantaggio che il consiglio d'amministrazione lo fai a cena la sera, non c'è bisogno di convocare, di chiamare, e i tuoi figli, se hanno preso da te la tua idea, non te la cambiano. Cioè, un progetto non viene falsato da uno che te lo rovina, viene continuata una tradizione. Ma è più facile andare d'accordo con Biagi e Montanelli o con i propri figli? Devo dire che con i miei... andavo d'accordo. Allora, Biagi, Montanelli... E Bocca. Ecco, lei ha lasciato Bocca da una parte. Biagi e Montanelli erano facili. Bocca era un po' difficile, ma Bocca è una, io che l'ho conosciuto a fondo, è una delle persone più buone che ho conosciuto in vita mia. È una delle persone più rispettose nei confronti del prossimo. Devo dire che Biagi, Bocca e Montanelli li considero padri miei, e i miei figli cerco di trasmettere quello che mi hanno trasmesso questi tre grandi, e perciò vado d'accordo con i figli, ma andavo d'accordissimo anche con i miei maestri di vita. Ecco, siamo quasi in conclusione del nostro colloquio. Diamo un consiglio per gli acquisti, non tanto acquistare vino a neri, ma come bere bene. Allora io do questo consiglio a qualsiasi consumatore. Parti con lo spirito che un bicchiere di vino, se buono, ti accontenta già mangiando. Due è già una cosa speciale. Allora, prendi del vino buono, di qualsiasi regione, perché in Italia abbiamo i più buoni vini del mondo. Il rapporto qualità-prezzo dei vini italiani è sempre vincente. Allora, prendi un vino buono, bevi un bicchiere in meno. E allora avrai anche il tuo stomaco, potrà gioire. Ecco, questo possiamo dirlo augurando anche buona digestione a quanti ci ascoltano, dato che l'orario di primo pomeriggio di estate deve portare con sé. Adesso devono bere un buon caffè. Abbiamo parlato poco di caffè, ma anche il caffè è uno dei cavalli di battaglia di Aneri. Grazie a Giancarlo Aneri di essere stato con noi questo pomeriggio. Giancarlo Aneri, presidente della società appunto Aneri, che produce vino, caffè, olio, ma anche grande sponsor del premio E Giornalismo, che ogni anno premia un grande nome del giornalismo italiano, un premio che è stato fondato da Aneri insieme a Biagi, Bocca e Montanelli. Io ringrazio anche Matteo Comes in regia e Guido Scotti in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buona estate, buona domenica, l'appuntamento è per domenica prossima.